America 24 di Mario Platero. Thanks to our board, our talented senior management team, and the man chosen by the board to take my place as CEO, Lamberto Andreotti. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, la voce che avete sentito è di Jim Cornelius, dava il benvenuto e annunciava la nomina di un italiano alla guida della Bristol Myers Squibb, una delle più importanti aziende farmaceutiche del mondo. Il nuovo amministratore delegato, ha detto Jim Cornelius, sarà Lamberto Andreotti. Good afternoon everyone. And as you can imagine, I'm very excited and I'm grateful that Jim. Eccitato, grato, la voce che avete sentito adesso è quella di Lamberto Andreotti, 58 anni, una carriera passata soprattutto nel settore farmaceutico, il figlio del nostro ex primo ministro Giulio Andreotti, è a New York da alcuni anni e parla naturalmente delle sfide che lo attendono. Abbiamo sviluppato una strategia, dice Andreotti, per diventare la nuova azienda della biofarmaceutica nella prossima generazione. Il suo progetto strategico è quello di chiudere un ciclo. Bristol Myers è uno dei grandi colossi farmaceutici mondiali e, come dicevo, avrà la missione di trasformare l'azienda in un gruppo focalizzato sempre più nel settore biofarmaceutico, ma dovrà anche rafforzare le attività internazionali, occuparsi di alcuni prodotti che stanno per uscire di produzione e che avevano un ruolo molto importante per il fatturato e soprattutto i profitti dell'azienda, e dovrà poi condurre l'azienda in uno dei momenti più delicati per il settore, soprattutto se andrà in porto la riforma sanitaria proposta dal presidente Barack Obama. We have many reasons to be optimistic. Una visione ottimistica, sono ottimista guardando al futuro, dice ancora Andreotti. Prende atto il nuovo amministratore delegato, entrerà in carica ufficialmente ai primi di maggio. Dicevo, prende atto che il Plavix, che è uno dei medicinali più importanti, un anticoagulante del gruppo, non avrà più l'esclusiva a partire del 2012 e dunque vi saranno alcuni problemi di sostituzione. Per questo, dice Andreotti, dobbiamo accelerare i ritmi della ricerca, i ritmi della produzione e soprattutto i ritmi della introduzione sul mercato. Questa nomina è molto importante ovviamente dal punto di vista italiano, perché Andreotti diventa oggi il più importante amministratore delegato, il più importante manager italiano nel gruppo delle prime 500 aziende americane. La Bristol Myers infatti è al numero 120, al 120esimo posto nella graduatoria delle più importanti aziende degli Stati Uniti d'America, un fatturato di circa 23 miliardi di dollari. E cambiamo argomento, ci occuperemo d'ora in avanti, in questi giorni che restano da qui agli Oscar, di Oscar, di attori, di registi. Ho incontrato Quentin Tarantino, personaggio simpaticissimo, ecco la sua voce. There's so many Italian directors I would be here forever. You know, if I said all the Italian directors that have inspired me, but ecco, questa è la voce di Quentin Tarantino, come vi ho detto, candidato al premio Oscar per miglior film per il suo Inglourious Basterds, un film tra l'altro ispirato da un precedente film italiano. In realtà i premi Oscar a cui è candidato il film sono parecchi, ci sono state addirittura 8 nomination, incluse quella per miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione dell'austriaco Christoph Waltz. E devo dire che secondo me è davvero stato il miglior attore non protagonista e dovrebbe vincere questo premio, chi ha visto il film lo ricorderà, nei panni del colonnello nazista Hans Landa. E dunque, quando chiedo a Tarantino che tipo di influenza ha avuto il film italiano nella sua esperienza professionale, mi dice starei qui una vita se li dovessi elencare tutti. Se dovessi dire però chi sono i tre fra i miei registi italiani preferiti, allora direi che sono Sergio Leone, Sergio Corbucci e Fernando De Leo. Sergio Leone, Sergio Corbucci, Fernando Di Leo, non i grandi maestri dunque, non Federico Fellini, non Rossellini, non il neorealismo, ma dei registi che hanno ispirato quel modo di fare i suoi film. E tra l'altro, come vi anticipavo prima, Inglourious Basterds è proprio ispirato a un film italiano, quel maledetto treno blindato di Enzo Castellari, e difatti Tarantino lo ricorda nella nostra conversazione e in qualche modo rende omaggio appunto a questo precedente film italiano. High hopes for the Oscar? Yeah, we'll see. Le speranze per l'Oscar ci sono, ma soprattutto Tarantino ci fa una piccola rivelazione e ci dice che visto che è possibile prendere il passaporto italiano, beh, non gli dispiacerebbe affatto fare l'application, visto che i genitori sono italiani, ha tutte le credenziali per poterlo fare, e dunque ci dà una piccola notizia: chissà, se vincerà l'Oscar, dice, magari festeggerà proprio chiedendo la cittadinanza italiana. In chiusura gli chiedo anche se questo film, che è un film che guarda al passato, Quentin Tarantino ha dato dei film straordinari, degli spaccati bellissimi della nostra società contemporanea, come mai qui invece guarda all'indietro, uno sguardo al passato, e mi dice: sono un filmmaker di genere, I'm a gender filmmaker, e questo era un genere che mi piaceva, molto simile ai macaroni movie comeback degli anni 70. E così Tarantino ci dà un altro spunto, un passaggio da quello che finora è stato chiamato il genre, il genere degli spaghetti western, al genre, al genere dei maccheroni. Anche questa sarà una novità per gli Oscar 2010. La città di Topeka, in Kansas, città celebre anche nei western, cambierà nome temporaneamente, lo ha annunciato il sindaco Bill Bunten, si chiamerà Google City. Perché? Per cercare di attirare l'attenzione di Google, che cerca delle città pilota per poter installare questa rete super veloce di internet, addirittura 100 volte più veloce del normale, per condurre degli esperimenti. La gara è molto accesa e dunque la creatività del sindaco va sicuramente apprezzata. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci per salutarci alla canzone del giorno. Oggi la dedichiamo a Paris Hilton, che è stata considerata troppo sensuale per i costumi brasiliani. Direi che il Brasile poi non è che sia così, fra virgolette, modesto in termini di sensualità. Le autorità brasiliane però hanno deciso che questo spot pubblicitario in cui lei era protagonista della birra carioca Devassa è troppo osé. La Hilton appare in un abito succinto nero, si atteggia in modo sexy, affacciata a una vetrata con in mano questa lattina di birra. I carioca non potranno vederlo più e quindi dedichiamo a lei la nostra canzone del giorno nella sua interpretazione di Stars Are Blind. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!